Allora, sì, ho una mezza idea. Adesso ancora non ci ho pensato, anche perché questa sarebbe la prima Olimpiade mia, quindi mi preparo, mi alleno tantissimo e voglio arrivare all'appuntamento senza rimpianti, con la piena convinzione di aver fatto tutto quello che potevo fare. Quindi ecco, c'è tanta emozione, non me le immagino, non so cosa pensare di questa Olimpiade. Il dopo non lo so, perché io ho sempre detto, questo comunque è un bel mondo, lo sport, ho cominciato adesso, da poco, con il Mondiale di Parigi, a divertirmi veramente, perché comunque ho vinto questo Mondiale, mi sono riconfermata nelle gare Coppa del Mondo, in allenamento va sempre meglio, ho voglia di andare in palestra tantissimo, quindi quando vinci è tutto più bello, ti piace, ti diverti. Però comunque è uno sport. Cioè, ti ovatta un po', ti lascia un po', diciamo, al di fuori di quella che è poi la vita normale di tutti i giorni, delle persone che fanno, non so, dei lavori normali, che stanno a casa più tempo, che si godono la famiglia. Ecco, sento questo bisogno di famiglia, di vita privata, ecco, di cose normali, perché poi la scherma si sì, è bella e tutto, però è più un'illusione e ne sono consapevolissima.